la versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, sono le 16:08 primi e 48 secondi, grazie per l'ascolto in diretta al podcast da Oscar Giannino, e vi diciamo subito di che cosa parliamo oggi. È una puntata di interesse generale, dedicata soprattutto ai fumatori sia di sigarette che di sigarette elettroniche, perché come avrete probabilmente capito, e comunque di questo parliamo oggi, con la legge di bilancio ci sono maxi aggravi. Sia per le sigarette, questo è, nella settimana scorsa si è profilata questa ipotesi, che è approvata, insomma, i partiti, c'è la maggioranza su questo, per una stima di maggiore entrate per 600 milioni dichiarate per reperire risorse per i farmaci oncologici. In realtà poi lo ripeto ogni volta, la posta di farmaci oncologici ha provocato contestazioni perché era una limitazione sulle maggiorazioni di retribuzione con i nuovi contratti nella sanità, quindi in realtà serve a reperire risorse per i contratti dei dipendenti della sanità, questo aggravio è per essere chiari. A fianco di tutto questo, in questi giorni si profila anche l'ulteriore aggravio, le ulteriori misure che pensano di portare a casa un altro pacco di milioni, modificando ulteriormente l'imposizione sulle sigarette elettroniche. In particolare oggi è il Messaggero a spiegare come, perché si vieta la vendita online delle ricariche, perché l'opinione dell'amministrazione tributaria è che si debba concentrare questa vendita solo nelle tabaccherie e nelle rivendite autorizzate, perché l'opinione dell'amministrazione tributaria è che questo abbia sottratto illecitamente gettito allo Stato. E poi cambia la natura del criterio attraverso il quale calcolare l'imponibile, perché c'era un lungo contenzioso alle spalle. Se si dovesse calcolare, cioè, l'imposta al consumo sui liquidi da inalazione, come calcolare questa applicazione, se farla solo sulla quantità di nicotina presente oppure no, e naturalmente a seguito anche di una sentenza della Corte Costituzionale invece si conferma adesso che l'applicazione va fatta su tutto il contenuto. E quindi a quel punto il gettito si moltiplica per 10 praticamente. Ciò malgrado, ripeto questo, malgrado il fatto che è evidente che le sigarette elettroniche non abbiano minimamente lo stesso impatto sulla salute che hanno le sigarette, se stiamo parlando di misure la cui finalità fosse quella di aumentare il prelievo in ragione del fatto che poi la sanità pubblica deve fronteggiare i costi per le patologie derivanti dal fumo diretto o indiretto. La verità è che noi siamo in presenza sistematica di un bancomat, è uno dei tanti bancomat che esistono a disposizione dello Stato e di chi introduce spesa aggiuntiva per coperture più o meno inventate all'ultimo secondo. È molto facile, come ovvio, aumentare l'imposizione fiscale su questo genere di consumo. Quando dico in maniera bislacca e in maniera creativa, lo dico a ragion veduta, perché da anni e anni, per esempio, le stime di gettito atteso che sono state usate naturalmente a copertura di spesa, per esempio su tutto il settore delle sigarette elettroniche, si sono rivelate, ma rivelate sbagliate per un ordine di grandezza impressionante, cioè nel senso che lo Stato si aspettava a regime 115 milioni di euro l'anno, ne ha incassati 4 milioni, ecco, per essere chiari. E oltretutto negli anni la successiva adozione di misure fiscali iperaggressive nei confronti del settore delle sigarette elettroniche ha in realtà e spiantato sul nascere la possibilità di sviluppo di un'intera filiera che si stava radicando di fronte a questo diverso tipo di consumo alternativo rispetto alle sigarette, tanto da far pensare molti, quorum ego, anch'io tra quelli, che lo Stato ci guadagnasse troppo dai tabacchi e fosse troppo abituato a modificare all'ultimo secondo in legge di bilancio le accise sui tabacchi per volersi consentire un mercato alternativo da cui guadagnasse meno, e quindi ha pensato bene di andarci giù con la mano pesantissima per aggravarne tantissimo il costo e quindi spiazzare sul mercato molti che a quel punto dicono: beh, diventa così caro che le sigarette elettroniche non fanno più per me. Allora, questa breve introduzione per introdurre l'argomento, e diamo la parola a esperti che in realtà studiano e seguono il settore da anni, ma prima io voglio finire leggendovi il titolo di un articolo, secondo me molto giusto, su Repubblica, che spiega questa inesausta ricerca creativa di nuovo gettito aggiuntivo rispetto alla versione originale della legge di bilancio. Se oggi siete lettori di Repubblica, lo avete già visto, a pagina 8, un articolo dell'ottimo collega che da anni segue l'economia e la finanza, Roberto Petrini, titolo a tutta pagina: Super ticket e pensioni, la pace tra Partito Democratico e MDP, i fuoriusciti dal partito insieme a Bersani, costa oltre 6 miliardi. Dire sì alle richieste dei bersaniani porterebbe nuovi aggravi sui conti pubblici. Ecco, per un interesse che è, io lo comprendo benissimo, di tattica elettorale, perché si sono resi conto che senza MDP gli seggi all'uninominale del PD scendono ulteriormente, ecco che bisogna ovviamente creare un ponte tra le due formazioni, e il ponte si crea con misure che hanno un costo molto elevato. Ecco perché servono poi coperture creative dell'ultimo momento, ma questo lasciamolo in un angolo, solo per capire perché rispetto alla versione originale della legge di bilancio fiorisce poi l'inventiva fiscale. E l'inventiva fiscale dove volete che si concentri in pochi giorni di esame? Laddove si ha maggior certezza, anche se magari si sbagliano le stime per ordini di grandezza come quelli che vi ho ricordato prima, di poter reperire gettito. Poi, se sono fantasiose, sarà deficit, ma ce ne si renderà conto dopo, come se avessimo bisogno di deficit aggiuntivo. Naturalmente chiamateci all'800240024 per dirci cosa pensate di queste misure. Io immagino che ci saranno sia i favorevoli, perché ci sono sempre quelli che dicono: chi vuole fumare si becchi l'ennesima stangata ogni anno, chi vuole sigarette elettroniche del resto abbiamo sentenze recenti che dicono che chi se le può permettere può pagare anche tasse in più. Abbiamo visto anche sentenze oramai in cui si introducono considerazioni giuridiche di questo tipo, ma non mi meraviglio più di niente. E magari altri che invece dicono: ma insomma, c'è un limite oltre il quale bisognerebbe smettere o di fumare o di accettare questa logica. Vediamo oggi tra chi ci chiama e chi ci manda messaggi come la pensate. Ma intanto i primi due ospiti. Abbiamo con noi Massimiliano Mancini, che è il presidente della NAFE, cioè l'Associazione Nazionale Fumo Elettronico. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori. E il professor Marco Spallone, che insegna all'Università di Pescara ed è vice direttore del Centro Arcelli per gli Studi Monetari e Finanziari alla Università Luis Guido Carli. Buon pomeriggio e grazie, professor Spallone. Buon pomeriggio a tutti, grazie a voi. Comincerei, non fosse altro che per maggior percentuale di fetta di mercato di consumatori e quindi di contribuenti anche colpiti, dal professor Spallone. Lei ha criticato questo emendamento fin sul nascere, dicendo che ha una caratteristica, tra l'altro, ovviamente può correggere tutte le stupidaggini che avessi detto fino a questo momento, ma ha una caratteristica, quella di colpire le sigarette meno costose, quindi oltretutto di essere anche regressivo, e di avere per questo effetti ulteriormente distorcenti, oltre all'aumento del costo ovviamente traslato sul consumatore finale, sulla complessiva organizzazione del mercato dei tabacchi lavorati nel nostro paese. Ce lo può spiegare, professore? Sicuramente, guardi, innanzitutto mi è piaciuta la sua introduzione e mi sento di criticarla quando lei ha detto la creatività poi si incentra sui mercati dove è facile fare gettito, no? In verità non è tanto facile, credo che il problema non sia neanche tanto quello di tassare i fumatori, perché se fumano devono pagare le tasse alte. La verità vera è che quando si incrementa il carico fiscale molto spesso si ha l'effetto opposto rispetto a quello desiderato, perché la domanda delle sigarette, così come la domanda di qualsiasi altro bene, è elastica, e quindi quando le tasse fanno sì che i prezzi crescano molto, c'è una riduzione della domanda forte che rischia di far ridurre il gettito invece di farlo aumentare. Oltretutto noi abbiamo l'esperienza di paesi europei, la Gran Bretagna per esempio, che a seguito di elevatissimi aumenti in unità temporale molto ristretti del prezzo grazie a una modifica radicale dell'imposizione fiscale, hanno visto paesi dove il fenomeno della illegalità del tabacco, a differenza dell'antica storia italiana, non era radicato e presente, l'hanno visto invece esplodere. Assolutamente, qui c'è l'altro punto fondamentale, quindi non solo è importante il fatto che i consumatori in generale reagiscono agli aumenti di prezzo indotti dall'aumento del carico fiscale, ma se poi questo aumento del carico fiscale è sbilanciato verso i prodotti di prezzo più basso, che costituiscono sostanzialmente la cerniera tra il consumo legale e il consumo illegale, si ha un effetto drammatico, perché non solo c'è un'erosione del gettito perché i consumatori si spostano verso i prodotti illegali, ma anche quella che è la finalità dichiarata di tutela della salute effettivamente non viene garantita, perché se io mi sposto verso un prodotto illegale mi sposto verso un prodotto che tra l'altro non è sottoposto a tutti i controlli a cui sono sottoposti i prodotti legali, quindi con tutte le poi conseguenze per approvvigionamenti finanziari delle mafie o di tutte quelle organizzazioni criminali che sul contrabbando poi riescono a garantirsi fondi per le loro attività. Quindi direi che ci sono due aspetti fondamentali. Da una parte, se uno spinge il carico fiscale troppo in là, si osserva una diminuzione della quantità domandata di sigarette e quindi una diminuzione del gettito. Ancora più grave se questo aumento del carico fiscale va a colpire le sigarette di prezzo basso, perché in questo modo si favorisce il rifiorire del contrabbando. Faceva benissimo l'esempio lei di paesi che sono da questo punto di vista stati colpiti fortemente dal commercio illegale, la Gran Bretagna, l'Irlanda, ma anche in molti paesi scandinavi che sono considerati virtuosi dal punto di vista dell'enforcement, quindi del controllo, quando il prezzo delle sigarette è arrivato oltre una certa soglia si è visto un aumento esponenziale del commercio illegale. Io non voglio solo dire che il livello, in termini comparati, della tassazione sulle sigarette italiane è troppo elevato, ma vorrei che spiegasse anche ai nostri ascoltatori. Ipotizziamo, io non sono io il legislatore, c'è una maggioranza politica che la pensa così, benissimo. Ma però questo non impedisce di guardare che cosa avviene altrove e che tipo di effetti provoca. Abbiamo ricordato che mettere l'acceleratore a tavoletta improvvisamente di anno in anno può portare alle conseguenze che ha detto. Però ci sono anche paesi che invece, pur scegliendo a propria volta di aumentare le accise, l'imposizione fiscale sulle sigarette, adottano un metodo diverso e magari il gettito non solo non lo perdono, ma ne ricavano uno aggiuntivo superiore alle previsioni. È capitato per esempio in Germania, lì cosa hanno fatto? Ma guardi, la Germania è assolutamente un esempio virtuoso che dovremmo guardare con attenzione, ma anche lì si era tentato un aumento indiscriminato delle accise con interventi discrezionali molto simili a quelli dettati dall'urgenza che si implementano qua in Italia, e si era osservata una crisi di gettito. Quello che è successo in Germania è che il governo è stato in grado di mettere intorno ad un tavolo l'industria e tutta la filiera del tabacco, scegliere una strada di programmazione degli aumenti fiscali, quindi si è deciso con l'industria quale doveva essere l'evoluzione temporale della tassazione. Questo ha permesso all'offerta di adeguarsi e quindi di programmare investimenti, strategie di marketing sulla base di programmi di lungo periodo, e questo ha avuto degli effetti assolutamente benefici e virtuosi sulle entrate fiscali, perché questa programmazione ha consentito all'offerta di adeguarsi, i prezzi sono aumentati in modo continuativo ma graduale, senza alcuno strappo, e questo ha consentito ai consumatori anche di adeguarsi piano piano ai continui aumenti di prezzo, e questo ha fatto sì che il gettito aumentasse, perché si è sostanzialmente stabilizzato nel lungo periodo un mercato. Oltretutto qui stiamo parlando di una cosa che può tradursi per appunto quelli che costano meno delle sigarette in un aumento che può arrivare fino a 50 centesimi l'anno prossimo e che cresce poi negli anni successivi. Ma guardi, qua ci sono varie considerazioni. Da una parte il decreto, l'emendamento che riformava sostanzialmente la legge sui tabacchi con adeguamenti automatici dell'onere fiscale minimo, che poi automatici non erano e che avrebbe indiscriminatamente, avrebbe discriminatamente colpito le sigarette di prezzo basso in modo più intenso, e quello avrebbe portato sicuramente ad aumenti intensi, 50 centesimi probabilmente per il primo anno, se non di più. E poi c'è quest'altro emendamento recente di un centesimo a sigaretta per finanziare il fondo per l'acquisto dei farmaci innovativi per la cura delle malattie oncologiche, che essendo, diciamo, una tassa di scopo, ma poi su questo magari spendiamo due parole su come si definiscono gli scopi della tassazione, questo effettivamente avrebbe degli effetti diffusi su tutto il mercato, perché ci sono dei moltiplicatori legati alla tassazione che si adegua all'aumento del prezzo medio ponderato e che potrebbe portare aumenti dai 50 centesimi fino addirittura ad un euro a pacchetto. Mio Dio, posso farle un'altra domanda a beneficio dei nostri ascoltatori? Quando si assumono decisioni di questo tipo, nella prassi e quindi in ciò che avviene concretamente nell'ordinamento italiano, la prassi richiamata per esempio per il caso tedesco, cioè quella di consultazioni per consentire una pianificazione fiscale, è una prassi che in Italia è anomala, talvolta succede per altre imposte, non è mai praticata, come mai? Ma guardi, io devo dire che se non formalmente, quantomeno informalmente, il tentativo da parte del governo di soddisfare quelli che sono i desiderata dell'industria e della filiera c'è. E devo dire che la riforma sulla tassazione dei tabacchi che è stata implementata nel 2015 era un po' il risultato del tentativo del governo di contemperare interessi diversi. E devo dire che per molti, per almeno un paio d'anni, questa riforma ha lavorato bene. Insomma, c'era un mercato in totale crisi, c'erano dei volumi che decrescevano a ritmi preoccupanti, c'era gettito erariale molto decrescente, e in verità si è fatto un lavoro tale per cui almeno nei primi due anni si è riusciti a stabilizzare il gettito, perché si sono stabilizzati i volumi. Devo dire che in generale però poi non è formalmente una prassi seguita, ma quello che preoccupa di più, se posso permettermi, è che non solo non si cerca di trovare una soluzione condivisa nella stragrande maggioranza dei casi, ma si prendono delle decisioni a volte senza aver valutato l'impatto di quelli che sono stati gli interventi precedenti. Proprio qui volevo arrivare, nel senso che mentre la mia opinione è che l'Italia dovrebbe munirsi di strumenti di analisi preventiva ex ante, di valutazione di ogni tipo di provvedimento economico, in particolare di quelli fiscali che, come è ovvio, esercitano incentivi e disincentivi sulle filiere, non solo sul consumo e sul gettito, ma sulle filiere degli addetti, sulle imprese, sul valore aggiunto complessivo. La mia opinione ferma da anni è che un ordinamento di un paese avanzato dovrebbe munirsi di una funzione strutturale presente nell'ordinamento, in cui la valutazione ex ante si fa oltretutto con organi e professionisti, docenti, esperti, terzi e indipendenti, perché altrimenti ci si ritrova poi con il dover calcolare gli effetti ex post, che sono effetti sui consumi, sui redditi, sugli occupati, sull'andamento delle imprese, magari sulla decisione di imprese multinazionali, visto che il mercato dei tabacchi ha fatto questo, di disintermediare questo o quel paese perché i margini vanno a zero e così via, che nella foga delle 72 ore dal deposito di un emendamento al suo voto, perché i tempi sono poi strettissimi in legge di bilancio quando ci sono emendamenti di questo tipo, a differenza delle versioni originali in cui sono più studiate al MEF le proposte, ecco che noi disegniamo una casacca di Arlecchino i cui effetti poi risultano molto diversi, ma ripeto, non solo sul saldo pubblico e sul gettito, sul complesso dell'impatto nell'economia, e lo abbiamo visto innumerevoli volte. Allora, intanto, grazie al professor Spallone, che è stato, spero, molto chiaro anche per non addetti ai lavori. Nella parte successiva della trasmissione avremo anche un rappresentante della British American Tobacco, sentiremo cosa ne pensano loro, e intanto chiediamo al presidente dell'Associazione Nazionale Fumo Elettronico, Massimiliano Mancini, oltre a ringraziarlo di essere con noi, che cosa pensa di quest'altra bella novità maturata nella legge di bilancio per il vostro settore. Beh, dunque, diciamo che sicuramente non è lo scenario migliore che ci eravamo prefissi, perché come molti sapranno questa è una battaglia che sta andando avanti da anni, circa 5 anni, nel quale abbiamo cercato con le istituzioni di mettere in piedi un dialogo soprattutto per far comprendere questa tipologia di prodotto di mercato. Come imprenditori in questo settore siamo coloro che sostanzialmente hanno contribuito alla nascita di un nuovo prodotto, perché pochi anni fa questo prodotto sostanzialmente non esisteva. Come tutte le cose che sono nuove devono essere capite. Devono essere capite e dopodiché devono essere normate. Quindi posso convenire che all'inizio, diciamo nel periodo del grande boom che è stato dal 2011-2013, c'è stata una crescita convulsa di questo mercato senza benché minima regola, anche per noi era difficile poter applicare una determinata etichettatura dei prodotti e la determinata definizione commerciale. Quindi chiaramente questo ha sicuramente spaventato lo Stato e la struttura esistente, lo Stato, quindi la distribuzione dei tabacchi e il sistema dei monopoli, perché di fatto arrivava un nuovo player sul mercato che non si sapeva chi fosse, e quindi lo Stato ovviamente, quando si è reso conto che il fenomeno non era un fenomeno modaiolo, ma era un fenomeno di profondo cambiamento culturale, ha deciso di intervenire per cominciare a limitare i danni, tanto che potevano essere dati da una crescita convulsa e non organizzata. Da qui ci sono stati i primi tentativi di tassare il prodotto in maniera decisamente pesante, con la prima tassazione al 58.5 del prezzo di vendita, una decisione che appunto, la prima legge che noi abbiamo portato in giudizio in corte costituzionale, riportando diciamo una parziale vittoria. Poi è stato pubblicato un altro decreto che ha stabilito la tassazione sostanzialmente attuale, creando un'equivalenza rispetto al prodotto fumato e stabilendo quindi poi uno sconto sull'imposta e quant'altro. E cosa è successo? Che tra i requisiti della direttiva tabacco, che hanno di fatto normato l'aspetto tecnico dei prodotti contenenti nicotina, a livello di etichettatura, confezionamento e quant'altro, e l'aspetto fiscale, si sono di fatto poi creati dei buchi normativi dentro i quali c'è stata la possibilità di eludere entrambe le leggi, sia quella tecnica di etichettatura e confezionamento, sia quella fiscale. Quindi da qui le azioni del governo sono state quelle di voler tutelare diciamo i consumatori, e il fatto di inibire a un certo punto le vendite online è stato visto come una delle possibilità di poter cominciare a controllare questo mercato per veicolare questi prodotti tramite i negozi specializzati esistenti e le strutture tabaccherie. Qui diciamo si è fatto un po' tutta l'erba un fascio, perché comunque non tutti i distributori online sono distributori regolari, ci sono moltissime aziende che lavorano in maniera corretta e propongono il prodotto con tutti i crismi sanitari, di qualità e di tassazione. È ovvio che facendo un provvedimento, come dicevo, si è fatta di tutta un'erba un fascio. Poi diciamo contestualmente è arrivata anche la pronuncia della Corte Costituzionale, che sostanzialmente ha dichiarato costituzionale anche il fatto che il ministro è stato con questa nuova forma di tassazione, e sostanzialmente diciamo siamo arrivati al punto zero, perché ormai come associazione di categoria abbiamo fallito tutte le vie legali possibili e abbiamo cercato di avere un percorso per far capire, per poter normare e tassare questo prodotto nella maniera corretta, e non ci siamo riusciti, o ci sono riusciti solo in parte, e questa adesso è una situazione di fatto, perché ormai tra decreto e sentenza della Corte i giochi sono più o meno fatti. Però tuttavia siamo un'associazione di categoria che rappresenta aziende, e siamo confederati a Confindustria, e la nostra volontà ovviamente è quella di continuare a dialogare con le istituzioni, con i decisori, per trovare un modo di stabilizzare il mercato che possa quindi favorire la sua normale e rigogliosa crescita. Speriamolo, sì. Ma io quello che mi ha colpito è stata un'offensiva micidiale, da che questa maniera e questi prodotti, questa modalità sembrava destinata a una larghissima diffusione, lo Stato col pugno di ferro in realtà l'ha messa a terra, cioè ne ha limitato fortissimamente lo sviluppo. Non lo so, io ho sempre avuto l'impressione che lo Stato preferisca i tabacchi e la nicotina, questo me la tengo per me, ovviamente prove non ci sono. Adesso andiamo a sapere che cosa avviene in borsa e un po' di pubblicità. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in, in diretta, cari ascoltatori. Avete sentito, insomma, come la pensa il professor Marco Spallone su questi interventi dell'accisa dei tabacchi. Colpiscono quelli che costano meno, ottengono l'effetto di incentivare l'illegalità, cioè il contrabbando, e producono diminuzione, come ovvio, della domanda e quindi minori entrate. E poi abbiamo sentito Massimiliano Mancini che ci ha spiegato come da anni le associazioni, l'Associazione Nazionale della Filiera tenta di spiegare allo Stato che di volta in volta, di anno in anno, con questi interventi si finisce sempre più in ginocchio, cioè come se ci fosse una strategia deliberata contro il fumo elettronico, tant'è che alcuni di voi mandano sms dicendo: ma dietro c'è lo zampino delle multinazionali del tabacco, dietro questa posizione così aggressiva dello Stato, non solo sulle sigarette, ma insomma sul nascere rispetto a quel prodotto che è il fumo elettronico. E allora, siccome abbiamo con noi Gianluca Ansalone, che è responsabile affari istituzionali di British American Tobacco Italia, oltre a ringraziarlo di essere con noi, parto proprio da questo: ma i nostri ascoltatori che dicono ma ci siete anche voi dietro l'inasprimento del rilievo nei confronti della sigaretta elettronica, ha un qualche fondamento? Ansalone, buon pomeriggio intanto. Buon pomeriggio a voi e grazie innanzitutto. E no, mi dispiace dover deludere gli ascoltatori, no, non è così. Non è così, spiego brevemente perché. Noi abbiamo una visione rispetto al mercato delle cosiddette sigarette elettroniche molto chiara. Allora, che ci sia stata in Italia negli ultimi anni una crescita ipertrofica e caotica di questo settore, non c'è dubbio. Una crescita che non è stata regolamentata, seguita, il regolatore se ne è un po' disinteressato, di contro sono nate tante nuove attività, indubbiamente alcune molto piccole ma molto vivaci, però non possiamo dire che ci sia stato uno sviluppo in Italia ordinato di questo settore emergente. No, è una classica cosa fai da te all'italiana. Esattamente, settore peraltro nel quale, voglio precisare, anche noi di British American Tobacco siamo attivi ed operativi. Che quindi ci fosse bisogno a un certo punto di fare un tagliando a questo tipo di crescita lo consideravamo utile, opportuno. Non condividiamo però questo strumento, cioè l'idea che nel 2017 attraverso un emendamento parlamentare si possa rivoluzionare completamente il settore, rimonopolizzando, statalizzandone di fatto la distribuzione, da un lato, e dall'altro lato impedendo la vendita online, perché questa è l'altra previsione di questo emendamento. Francamente nell'anno in cui parliamo ci sembra un passo indietro, non certo un passo in avanti, e quindi non trova il nostro consenso, perché è contrario alla libertà di mercato, è contrario alle regole di buonsenso, in un contesto nel quale però noi da tempo sollecitavamo da parte del regolatore pubblico un'attenzione e quindi un riordino, se vogliamo, di questo mercato che era cresciuto allora, in maniera troppo caotica. Stante che appunto così la pensate sul sigarette elettroniche, cosiddette sigarette elettroniche, in cui si inalano poi prodotti di tipo diversi, questo naturalmente alcuni di voi me lo fanno giustamente sottolineare, grazie. E prima di continuare, perché a questo punto poi le devo chiedere cosa pensate invece dell'intervento in legge bilancio riserva ai tabacchi, sentiamo un primo ascoltatore, Gabriel, che ci chiama da Milano. Gabriel, prego. Sì, pronto, buonasera Oscar, ringrazio di avermi fatto parlare. Sì, figurati. Ascolti, io ovviamente sono pienamente d'accordo con lei sul fatto che c'è una tassazione indiscriminata da moltissimo tempo sulle sigarette. Ora, secondo me il punto fondamentale è questo: lo Stato si è visto per vari motivi ridurre un gettito fiscale che era praticamente una sorta di pensione fissa che gli arriva, sia a causa della minor quantitativo di persone che comunque fumano sigarette, perché è un dato di fatto che... È un dato di fatto. Esatto. Ed è anche un dato di cui compiacersi, se posso dire, però... Esatto, esatto. Vuol dire che magari un po' quelle campagne, micro campagne che loro finanziano, perché basta mettere il piede dentro all'interno di un centro antifumo statale, ci rendiamo conto del servizio che comunque offrono, l'alternativa al fumo, ok? E lasciando stare quella parte lì, gli sale molto la voglia di andare a tassare un prodotto che comunque le ricerche, gli studi stanno anche dimostrando che comunque riduce ulteriormente il quantitativo di persone fumatrici attive nel nostro paese, ma non solo, ma anche nel mondo. E allora gli viene tanta voglia di andare a mettere mani di sopra. Però è un prodotto che comunque ha generato enorme economia nel 2011-2012 quando è esploso. C'è stato un periodo di stallo, seguito da un periodo di riduzione, chiusura di questi negozi che comunque andavano, hanno permesso anche a molti giovani di poter aprire negozi, eccetera, eccetera, e comunque paghiamo le tasse sopra, perché la tassazione sopra c'è. Il liquido della sigaretta elettronica sulla sigaretta elettronica che noi andiamo a comprare tutto il resto. E non è che sia proprio gratis, e quindi mi sembra proprio una tassazione alla cieca. Alla cieca. Oltretutto, il gettito aspettato, come abbiamo detto, la cifra, la discrasia tra le attese dichiarate, che erano in legge bilancio, e quello che è incassato, dovrebbe già quello da solo far capire che queste misure inventate lì per lì hanno poi un effetto assai discutibile e completamente diverso da quello che viene indicato all'inizio, che i giornali devono pubblicare. Allora, adesso andiamo a vedere le informazioni sulle strade e poi torniamo con Gianluca Ansalone. La versione di Oscar. Eccoci tornati e sentiamo Francesco da Torino, direttamente come la pensa. Francesco, prego, buon pomeriggio. Buonasera. Molto brevemente, senza far paragoni elettronica o fumo naturale, come si possa chiamare, io sostengo, l'idea è questa, sigarette a 20 euro, dipendentemente dai pacchetti di sigarette, dalle marche, queste cose qui, diminuzione pazzesca dei fumatori, io penso almeno 50-60 se non oltre, smettono di fumare. E se lo Stato vuol veramente pensare alla salute dei cittadini, in questo modo secondo me ce la fa, di contro, per contro va a diminuire quelle che sono, credo, le spese sanitarie, e questo è quanto. Cioè... Francesco, aspetti, no, lei ha detto, è chiara, 20 euro e quelli sono gli effetti che si aspetta. Allora, prima abbiamo richiamato l'esempio di paesi che non sono arrivati a 20 euro, ma rispetto ai prezzi praticati prima, grazie alla componente fiscale molto più bassa, hanno visto aumenti ipersignificativi del prezzo. La Gran Bretagna, per esempio. E le abbiamo detto che cosa è avvenuto. Non è avvenuto quello che diceva lei, è avvenuto che un segmento elevatissimo del mercato britannico si è traslato sul consumo illegale, cioè sul contrabbando. E quindi, sa, è questo un po' quello che ci insegna la storia, nel senso che se fosse come dice lei, avremmo trovato il toccasana per tutta una serie di consumi, no? In cui per me poi esiste la libertà individuale di chi è consapevole dei danni a cui si espone, però io posso capire che molti non siano d'accordo con me. Ma il problema è che il suo ragionamento ha un bug, come si vuol dire, ha un piccolo difetto, ha una piccola falla, che a oggi chi si è mosso in quella direzione, e sto parlando di anni recentissimi, non di roba in cui i mercati erano diversi e le risposte al consumo erano molto diverse, in anni recentissimi quello che è avvenuto in presenza di aumenti non così drastici come dice lei è stato consegnare il 25, il 30, il 35, il 40% del mercato precedente al contrabbando. Sa chi lo gestisce il contrabbando? Le grandi reti criminali, come ovvio. E questo è quello che è avvenuto. Non le ho detto a torto, le dico solo tenga conto e teniamo conto di quello che la storia ci insegna. Ansalone, voi che dite di fronte agli interventi della legge di bilancio invece sui tabacchi e le sigarette? Allora, io ho ascoltato con attenzione l'intervento del professor Spallone e anche le sue osservazioni successive le condivido appieno. Mi permetta di aggiungere solo un elemento. Dunque, guardiamo a cosa è successo all'anno in corso, nel 2017. Noi abbiamo avuto a giugno, con la manovrina, un forte inasprimento fiscale sulle sigarette. Lo Stato aveva bisogno di far cassa, c'erano promesse fatte alla Commissione europea, si è deciso di intervenire su vari settori in maniera molto forte, soprattutto sulle sigarette. Quindi un inasprimento fiscale che, mi preme dirlo, quest'anno, differentemente da altri casi, è stato totalmente assorbito dall'industria, quindi salvo rare eccezioni non ci sono state, diciamo così, traslazioni sui prezzi finali al consumatore. Adesso ci troviamo che a distanza di meno di 6 mesi si torna a parlare di un ulteriore inasprimento fiscale. Allora, qui ci sono 2 temi da tenere in considerazione. Primo, li avete già affrontati, che riguardano l'analisi dell'elasticità della domanda, le caratteristiche del mercato, il ruolo del contrabbando, soprattutto in Italia. C'è però un secondo aspetto che come multinazionale ci sta molto a cuore, e cioè si fa grande difficoltà a considerare attraente e attrattivo un paese nel quale le regole del gioco cambiano per ben 2 volte, rischiano di cambiare per ben 2 volte quando la partita è già iniziata. Allora, noi considereremmo un principio di civiltà giuridica se ci fosse la possibilità, e credo che questo sia un tema da aprire al più presto, mi auguro anche nell'urgenza del dibattito politico, una prevedibilità di carattere fiscale che riduca i margini di discrezionalità e porti finalmente a modelli virtuosi simili a quello tedesco, dove opera un cosiddetto calendario fiscale. Mi spiego meglio. All'inizio di ogni anno il governo in Germania chiama gli operatori di un settore, nella fattispecie quello del tabacco, e gli dice: beh, dimenticatevi che io possa mai diminuire la tassazione sulle sigarette, perché ho motivi di tutela della salute pubblica, ho esigenze di fare maggior gettito per l'erario e così via. Vi alzerò le tasse, ma ve le alzerò nei prossimi anni secondo un parametro oggettivo, che in Germania è l'inflazione programmata. Allora, di fronte a uno scenario del genere, ripeto, si riducono i margini di discrezionalità, si riduce la possibilità che attraverso iniziative come quella dell'emendamento, degli emendamenti di cui parliamo alla legge di bilancio, come lei sottolineava, discussi in 72 ore senza aprire il dibattito alla filiera, agli interlocutori, aver fatto una valutazione di impatto regolatorio, soprattutto si garantisce che le aziende nel medio e lungo termine possano programmare, pur pagando più tasse. Nessuno di noi è così illuso da pensare che le tasse sulle sigarette un giorno caleranno. Non è questo il trend e sicuramente non è questa l'illusione o l'auspicio da un certo punto di vista. Però sapere che aumenteranno secondo parametri oggettivi in un periodo di tempo prevedibile consente allo Stato di far maggior cassa, alle aziende di programmare nuovi investimenti, nuova occupazione, nuovi programmi di ricerca e sviluppo anche su prodotti innovativi come le sigarette elettroniche, i prodotti del tabacco riscaldato, e dare una maggiore coerenza e serenità ad un settore che altrimenti viene continuamente tirato per la giacca. Mi sembra una cosa ragionevole, perché ascoltatore, non è che state ascoltando una cosa che dice no, non capiamo. Cioè, congegniamola in un modo che gli strappi a sorpresa non si rivelino poi in delusioni totali sul gettito atteso, come capita, e diamo alle imprese la condizione che dovrebbe essere poi il fondamento per l'attrattività e far crescere l'economia, di una pianificazione pluriennale dei margini attesi del bilancio, perché se no tutti i tuoi investimenti li devi cambiare, per cambiare devi avere una programmazione pluriennale attendibile, perché se ti cambiano le condizioni del gioco il tuo margine sparisce, va a pallino la tua programmazione di risorse. Poi alla fine ci vanno gli occupati di mezzo, lo sappiamo qual è la questione. Non voglio ridurre la questione del fumo agli occupati della filiera, ma di qui a fregarsene, ecco, mi sembra che sia una cosa un po' differente, ecco. Sentiamo come la pensa ancora Vito da Sondrio, di cui leggo che è proprietario di 4 negozi di sigarette elettroniche. Vito? Sì, 4 negozi qui in Valtellina, collegato a un altro in Toscana. E quello che abbiamo fatto noi è stato creare un'attività per 3 famiglie, 2 dipendenti al di sotto dei 25 anni che hanno un lavoro, quasi 10.000 persone che hanno smesso di fumare negli anni, in questi ultimi 5-6 anni in cui abbiamo le attività, e siamo veramente sconvolti da quello che sta succedendo, perché le tasse le paghiamo regolarmente, tutte le tasse che ci vengono chieste. E adesso sembra che veniamo criminalizzati come quelli che lavorano ai limiti dell'illegalità. È una cosa che io reputo veramente assurda, soprattutto quando poi ormai le evidenze scientifiche sono che gli utilizzatori personali, le sigarette elettroniche, sono il miglior sistema per allontanare le persone dal tabagismo, causa di migliaia, decine di migliaia di morti. Anch'io devo dire che nei confronti del vostro settore da anni assisto a una roba che per me è incomprensibile, anche se il legislatore non l'aveva capita all'inizio. Allora, intanto grazie anche al nostro ascoltatore Vito, ma grazie anche al Salone che è stato con noi. Appuntamento domani dalle 10 alle 12 con i conti della Belva, perché torniamo a parlare di banche domani con Carlo Alberto, Cannavale Maffè, Mario Seminerio, Renato Cifarelli, Creval, Carige. Ma come, non era finita la crisi bancaria. E allora? E poi dei conti dei soci delle coop non garantiti se le coop vanno all'aria e non sottoposti alla regolazione di Banca Italia. Domani dalle 10 alle 12.